Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, 113esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che ascoltate è quella di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della redazione. È giovedì 19 settembre 2013 e non sono giorni allegri. Il 10 settembre la Romania ha approvato l'eutanasia per i cani randagi. In un paese dell'Unione Europea, culla dei diritti, i cani non hanno quindi più diritto di vivere. Si è scelto di uccidere invece di sterilizzare. Domenica 15 settembre poi si è aperta la stagione venatoria e la strage di animali indifesi, colpevoli solo di vivere una vita libera e selvatica, è ricominciata. Mamutones è il nome poi del cavallo morto nel palio di Asti, che segue di poche settimane quella di Scheggia nel Vento, la pura sangue che si è spezzata irrimediabilmente una gamba alla Quintana di Foligno e che dunque è stata uccisa. Questi animali sono simbolo delle altre centinaia di migliaia di animali ai quali non è permesso vivere come la loro etologia vorrebbe. Il nostro primo servizio di oggi riguarderà proprio un commento sul palio di Asti. Abbiamo raggiunto Sonny Richichi dell'Associazione Italian Horse Protection di Montaione, nostro punto di riferimento per tutto quello che concerne il mondo equino. Noi abbiamo pubblicato un comunicato con tanto di video a supporto dove viene mostrato come il fantino abbia un comportamento allucinante, cioè prima che venga dato lo start della partenza inizia a frustare il cavallo, quindi inducendolo a groppare e poi a saltare in avanti tentando di cavalcare il canapo. Il cavallo non ce la fa perché il canapo, cioè la corda che tiene i cavalli fermi prima della partenza, è ancora alto, vi inciampa sopra e quindi in quel momento cade sulla sua testa rovinosamente e perde la vita. Quindi in questo caso c'è un innesco micidiale che è appunto provocato dalla mano del fantino. Viene da chiedersi se in questi pali esiste una giuria, esistono dei regolamenti. I regolamenti veramente sono qualcosa che fatichiamo intanto a interpretare. Ogni anno ci troviamo a fare i conti con incidenti mortali, comunque molto gravi, che succedono anche nei pali che si vantano di avere le maggiori tutele per i cavalli. È successo quest'anno a Foligno, è successo l'anno scorso a Siena con un infortunio molto grave a un cavallo. Asti è considerato uno dei pali con maggiore attenzione nei confronti dei cavalli. In realtà la verità è quella che diciamo noi da sempre. Nella realtà chi entra nei regolamenti e chi cerca di studiarci sopra vede come ci sono dei buchi enormi nella tutela di questi animali, come a volte non viene completato neanche l'iter del doping. Per esempio a Siena è impossibile fare il test antidoping a conclusione della gara, proprio per la tipologia e l'ambiente che si crea in quel momento con la bolgia infernale, e non ci sono regolamenti che possano intervenire in alcun modo in caso di comportamenti scriteriati come questo, se non, come nel caso specifico, non far correre al fantino la gara che si è corsa il giorno successivo, ma questo diciamo cambia poco nel momento in cui questo fantino gira tutti i maggiori pali d'Italia. È uno dei fantini pagati, come lo sono tutti, perché sono persone, sono professionisti che girano questi circuiti. C'è un altro fantino che si chiama Luca Innocenzi, che corre un altro tipo di corse storiche, cioè le giostre, che pur essendo stato condannato nel 2009 in primo grado per doping, con delle intercettazioni pubblicate che fanno veramente paura, dove parlano di bombare il cavallo, di pomparlo fino alla morte, e queste parole testuali che sono state scritte e pubblicate, continua indisturbato a fare le sue gare senza che nessuno gli dica niente. Quindi i regolamenti di verificatori consentono di tutto di più, alla fine sono più una facciata che una tutela vera dei cavalli. Parliamo anche del ruolo che ha la televisione. In questo caso, così come per Siena, il palio è stato mandato in diretta, se non sbaglio. Uno degli esempi più beceri e diseducativi di uso della televisione, tra l'altro, della televisione di Stato, in questo caso come nel caso di Siena. Quindi, partendo dal falso presupposto che si stia mandando in onda la celebrazione di una tradizione popolare, di una festa, di una rievocazione storica, si finisce per fare il gioco di gente che su queste manifestazioni ci specula se parliamo di soldi pesanti. Le cifre che si raccontano su Siena sono impressionanti. Infantino che vince il Palio di Siena può vincere qualche centinaio di migliaia di euro, e che dietro queste manifestazioni ci sono anche giri di scommesse non indifferenti. Quindi la televisione di Stato si sta a questo gioco, compiendo nello stesso tempo, quindi doppiamente a nostro avviso colpevole, un'azione diseducativa, perché trasmette, continua a trasmettere l'idea a tutti quanti che è normale usare gli animali in questa maniera per divertimento pubblico, e che se li mandiamo ad ammazzarsi contro una transenna, fissandosi contro il paletto di una staccionata, o appunto battendo la testa e perdendo la vita, fa parte del gioco e sono incidenti di percorso, come se fossero esseri che di loro spontanea volontà vanno a partecipare a queste competizioni e quindi lo mettono in conto. Sono animali assolutamente forzati a far questo, che vivono una vita innaturale tutta la loro vita, non vedono mai probabilmente una vita di branco, di pascolo, di libertà come un cavallo dovrebbe vivere, e che vengono allenati solo esclusivamente per fare questo spettacolo che ormai è diventato veramente deprimente. Per un emozionante incontro ravvicinato con cavalli veramente liberi e rispettati che vivono come Quino comanda, potete contattare l'Italian Horse Protection di Montaione e fissare una visita guidata a www.horseprotection.it con l'H davanti naturalmente. Sulle drammatiche notizie che arrivano dalla Romania ci siamo messi in contatto con Sara Turetta dell'associazione italo-romena Save the Dogs, che abbiamo già intervistato qualche mese fa. Ciao a tutti. Sara, abbiamo saputo che il 10 settembre la Romania ha approvato l'eutanasia per i cani randagi. La situazione è precipitata negli ultimi giorni perché si è verificata la morte drammatica di un bambino di 4 anni in circostanze molto poco chiare, ma sembra che questo bambino appunto sia stato attaccato da alcuni cani randagi nella periferia di Bucarest. Questo fatto, che ha sconvolto l'opinione pubblica rumena, ha cancellato con un colpo di spugna la legge per la protezione degli animali, che era stata approvata nel 2008 e che diceva chiaramente che l'eutanasia non rappresentava una soluzione per contrastare il randagismo. In 2 giorni il Parlamento rumeno ha approvato una legge che invece reintroduce l'eutanasia di massa, anche se bisognerebbe parlare di uccisione di massa, perché l'eutanasia è una pratica molto poco comune, molto poco conosciuta in Romania. E quindi dal momento in cui è avvenuto questo drammatico fatto si è scatenata anche una vera e propria caccia al randagio in Romania, ad opera anche dei comuni cittadini oltre che delle municipalità. Queste sono le notizie, diciamo, drammatiche. Un filo di speranza è arrivato dal Senato rumeno, perché 30 senatori, grazie alla pressione di associazioni come Save the Dogs e di altre associazioni attive sul territorio in Romania, hanno fatto un ricorso alla Corte Costituzionale per chiedere di bloccare questa legge, quindi c'è ancora un filo di speranza. Beh, noi non crediamo in questo momento che le petizioni e le email abbiano un peso e abbiano la possibilità veramente di cambiare le cose. Noi pensiamo che vadano sostenute quelle realtà come Save the Dogs, che da 12 anni operano sul territorio in una maniera strutturata, facendo interventi di sterilizzazione, di educazione, campagne di sensibilizzazione e attività di lobbying. Quindi noi stiamo lavorando a livello del Parlamento rumeno, ma stiamo lavorando anche a livello diplomatico attraverso le ambasciate italiane, l'ambasciata britannica, l'ambasciata olandese. Stiamo muovendo tutta una rete di contatti anche a Bruxelles per fare in modo che vengano esercitate delle pressioni dall'estero. Quindi è importante che Save the Dogs sia forte in questo momento, sia autorevole, e che le persone ci diano forza. Tra l'altro, per completare il progetto che abbiamo appunto, che vede questo nuovo canile inaugurato l'anno scorso, dobbiamo realizzare una clinica veterinaria che purtroppo finora non abbiamo potuto costruire per mancanza di fondi. È una clinica per i randagi, destinata ai randagi, quindi è molto importante che la gente ci aiuti a completare questo importante progetto. Sostenere Save the Dogs è essenziale quindi anche per contrastare questa terribile legge sull'eutanasia. Tra l'altro, nel sito di Save the Dogs c'è una pagina dedicata alle donazioni. Basta digitare Save the Dogs nella sezione Aiutaci, save.thedogs.eu. E se avete una carta di credito potete fare la vostra parte anche online. All'onorevole Andrea Zanoni, deputato europeo, chiediamo com'è possibile che in un paese che fa parte dell'Unione Europea possa avvenire una cosa del genere e quali strumenti esistono perché a tutto questo possa essere messa la parola fine. Purtroppo diciamo che l'Europa non ha molte leve nei confronti della Romania, ma anche nei confronti di altri stati membri che attualmente per legge consentono l'eutanasia dei cani randagi. E perché, bisogna ricordarlo, non è solo la Romania che è una normativa del genere. In Europa non abbiamo una direttiva o un regolamento sugli animali di affezione. Abbiamo una serie di direttive che riguardano gli animali da reddito, una direttiva sui suini, la direttiva sulle galline vaiole, abbiamo delle direttive sui regolamenti sul trasporto degli animali da reddito, ovvero animali da sfruttamento, ma manca quella sugli animali da affezione. Mancando questa direttiva, purtroppo, la legislazione viene data totalmente in mano ad ogni Stato membro che per il principio di sussidiarietà può fare la normativa che vuole. Infatti, invitati gli Stati membri ad adottare politiche relative alla sterilizzazione, alla microcipatura di randagi, a quindi un controllo umano del fenomeno del randagismo. Però questi non hanno valore di legge. Se avessimo una direttiva sugli animali d'affezione con la quale si vieta l'uccisione, l'eutanasia, con la quale si prevedono le sterilizzazioni, le microcipature e l'obbligo di istituire le varie aree di ogni Stato membro di rifugi e questa norma non venisse applicata, allora ci sarebbero le procedure previste per la violazione di ogni norma, come l'apertura di una procedura di infrazione che può scaturire anche con una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea. Purtroppo questa norma attualmente non c'è, per adesso l'Europa è, casi come quello della Romania, appunto purtroppo disarmata, non ci sono leve istituzionali, non c'è diritto comunitario perché manca appunto una direttiva. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vi racconto due cose. Siccome abbiamo parlato di basarsi sull'autoproduzione, stimolare questa autoproduzione, quindi come facciamo a fare il latte di soia e magari diamo anche delle indicazioni sui costi, così uno si rende conto quanto può risparmiare oltre a imparare a fare qualcosa di nuovo, insomma. Per il latte di soia è semplicissimo, basta comprare dei fagioli di soia, sono quelli a pallina gialli, biologici, e costa più o meno 2 euro un sacchetto da mezzo chilo. Da mezzo chilo di soia ci facciamo 5 litri di latte di soia. Wow! E poi abbiamo l'Okara, che poi spiegheremo che cos'è e che cosa serve, che manteniamo, quindi con 2 euro ci facciamo 5 litri di latte che mediamente lo pagheremo almeno 10 euro, perché costa su di 2 euro al litro. Più abbiamo l'Okara con cui ci possiamo fare polpette, crostini. Mettiamo in ammollo i fagioli di soia la sera prima, diciamo almeno 8 ore devono stare in acqua, e ne mettiamo un etto di fagioli per ogni litro di latte che vogliamo fare. Quindi non importa farne 5 litri, uno se ne può fare un litro, mette un etto di fagioli con abbondante acqua fredda, normale di rubinetto, e li lascia 8 ore in ammollo e vedrà che da fagioli tondi diventano come fagioli cannellini, più o meno prendono quella misura, quella dimensione, quella forma lì. Allora, a questo punto mettiamo un litro di acqua a bollire, mettiamo un litro d'acqua sul fuoco, almeno un litro di acqua per ogni etto di fagioli che abbiamo messo in ammollo. Mentre l'acqua si scalda, tritiamo ancora crudi i fagioli di soia che scoliamo dall'acqua e magari per aiutarci usiamo un po' di quell'acqua che abbiamo messo a bollire. Quindi con un frullatore a immersione li tritiamo più finemente possibile. Ancora, ripeto, ancora da crudi. Quindi quando l'acqua alza il bollore, uniamo i fagioli tritati all'acqua e li lasciamo cuocere per 3-5 minuti. Facendo attenzione perché a quel punto formano una schiuma e cercano in tutti i modi di uscire fuori dalla pentola. Per cui cerchiamo di abbassare un po' il fuoco, di mescolarli e di tenerli a cuocere più o meno 5 minuti. C'è l'esplosione praticamente. Sì, fanno proprio una schiuma e cercano in tutti i modi di liberarsi da quella pentola. E il coperchio non si può... Il coperchio no, no. Perché sennò ti vanno ancora vai, più fuori. Ancora più fuori, nulla. Dopo 5 minuti scoliamo e quello che rimane, diciamo, il liquido lo rimettiamo nella pentola. la parte solida, quella che abbiamo tritato, che si chiama Okara, la mettiamo da una parte e poi magari nella prossima puntata racconteremo che cosa ci possiamo fare. To be continued. Sì. A questo punto quel liquido che è scolato lo rimettiamo sul fuoco da solo questa volta per circa 10 minuti. Una volta passati 10 minuti il latte di soia è pronto. Non ci posso credere. Quindi è facilissimo. Finché non vedo non credo. Allora, così sa molto di soia, di fagiolo. Quindi per le preparazioni salate va benissimo. Si sposa benissimo con i piatti. Per fare la maionese, per dire, va bene o sì? Per fare una besciamella vegana, eccetera. Mentre magari per berlo così, se uno gli dà un po' fastidio, diciamo, per il sapore un po' particolare, un po' forte, ci può mettere o un po' di zucchero di canna grezzo, che magari lo dolcifica, o magari della vaniglia o della cannella. In questo momento o doveva mettercelo prima? Lo può mettere mentre lo fa bollire, oppure una volta pronto lo fa bollire un altro minutino con cucchiaino di zucchero. Personalmente preferisco non mangiare zuccheri aggiunti. Metterci una bacca di cannella? Sì, di cannella o di vaniglia. Se ti piace il gusto, va bene, smorza un po' il sapore forte del fagiolo, insomma. Perché ti faccio questa domanda, io la vaniglia ce l'ho presente in due modi. O la bustina famosa. No, una cosa più raffinata di così. Il baccello di vaniglia alla bacca. Un baccello di vaniglia che ha un sapore fortissimo, e immagino che dove lo immergi saprà tutto di vaniglia all'ennesima potenza. Sì, il baccello di vaniglia solitamente si va aperto a metà. Vuole un coltello. Vuole un coltello, lo apri a metà e ne gratti un pochino dal centro e prendi la bacca che c'è dentro. E ci metti quella. Ah, forse per quello ti veniva un po' troppo forte. Io immergevo il baccello intero e la cosa diventava disgustosa. Esatto. Ecco, appunto. Ho imparato una cosa. Altrimenti c'è polvere bourbon di vaniglia bourbon, è quella? È quella, una puntina di quello, certo, senza esagerare, perché non è che deve essere, deve perché smorzare il sapore. Oppure se uno si abitua al sapore così, va più che bene. Naturalmente in questo modo. E questo appunto è il nostro latte, che va avanti 3-4 giorni in frigorifero, se non serva. Poi tanto lo vediamo, quando va male non importa bollirlo, perché si separa l'acqua dal latte, quindi lo vediamo benissimo anche dal frigorifero che non è più buono. Breve, facile e immagino molto buono, proveremo. Ciao ciao! Ciao! Chiudiamo con un pensiero della scrittrice Marguerite Yourcenar. Gli animali hanno propri diritti e dignità come te stesso. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi, contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.